Sotto i salici continenti, un tramonto stile hollywoodiano. Viene con i gardinali, cucciolari delle orrubi. È una vaga tristezza quella che ci prende dentro e fuori. Berlino in evidente stato confusionale. Ci muoviamo luminosi in uno spazio bidimensionale. Oscura con la banda di colori infatti che io ci mi fa paura, che la vita di qua è una vita di là, se la se ne va e pensiamo di noi che sarà se la gente di qui si avvicina su e ci parla da ragazzini, è perché la TV guarda il film su New York City. Della nazione ci spostiamo in automobili abbozzate di associazioni, famiglie di noi di culture cittadine, a chi ci chieda consulenze e mandrine, di Berlino che è difesa di la libertà, asile morte e fuggi in circostanze particolari. Questa è una canzone che io ho scritto, poi rinnegato, poi scritto, poi rinnegato ancora, e adesso sono nella fase della negazione, nel senso che adesso questa cosa qui non la posso fare, almeno per un periodo, anche perché alcuni dottori dicono che lo posso fare, altri dicono che no, e quindi l'incertezza, anche per non creare insomma, contrasti fra dottori che invece non ti servono.